La misericordia è quel gesto di pietà che muove a soccorrere, a elargire, a perdonare, a desistere da una punizione. Non vi è dubbio che essa non possa che essere apprezzata. Eppure, parlando di misericordia, quella di Dio è la più discussa, la più contraddetta. Se fosse l'ira di Dio ad essere messa in discussione da un certo punto di vista, potrebbe anche essere comprensibile, ma che una ragione di acerbe discussioni teologiche sia la misericordia di Dio sembra proprio un'assurdità. E poiché di apparenti assurdità nel campo della fede ce ne sono molte, prendiamo in esame la misericordia di Dio. Il testo in questione è la testimonianza di Dio in merito al suo comportamento nei confronti degli uomini e che troviamo nella lettera ai Romani, citato da Paolo. Sta scritto: Io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Che diremo dunque? Ci è ingiustizia presso Dio? Così non sia. Egli dice infatti a Mosè: Io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Romani 9, 13-16. Alcuni teologi da questo brano hanno formulato delle dottrine estremiste, ma noi ci soffermeremo solamente sul significato della misericordia e la sua vera applicazione. L'affermazione di Dio di fare misericordia a chi vuole Lui non può lasciare indifferenti noi creature morali fatte ad immagine di Dio, perché un tale atteggiamento lascia presupporre un autoritarismo ingiusto. E questo è normale perché noi osserviamo la realtà della vita come dei pipistrelli appesi, cioè al contrario. Insistiamo di vederci bene, ma non ci rendiamo conto di essere capovolti rispetto alla realtà. Ci impuntiamo dicendo che il mondo è al contrario e, mentre questo è vero, non siamo coscienti di esserlo noi. Dunque Dio fa misericordia. Questa parola, o meglio questo atteggiamento di Dio di soccorrere, di perdonare, di desistere da una punizione, non avrebbe senso se non sia presente la ragione per cui Dio ha misericordia. Come non può esistere il perdono se non vi è un'offesa, come non vi può essere la pace se prima non vi è la guerra? La misericordia per essere tale deve partire dal presupposto che la persona sia colpevole e mancante. E questo è una cosa scontata perché, come sta scritto, non ci è alcun giusto neppure uno. Quindi, tutti, nessuno escluso, abbiamo una necessità impellente della misericordia di Dio. Proprio perché Dio è l'unico che può fare e dare misericordia, proprio perché Lui fa misericordia a chi vuole, il nostro senso morale si ribella verso un simile atteggiamento discriminatorio. Perché verso alcuni Dio ha certi riguardi e ad altri no, non è forse Dio ingiusto quando fa delle preferenze? Sono domande comprensibili ma non nuove, perché, come dice il libro dell'Ecclesiaste, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Gesù stesso in una parabola mise in evidenza come nel cuore dell'uomo vi sia una ribellione nei confronti della misericordia di Dio. Il regno dei cieli infatti è simile a un padrone di casa, che di buon mattino uscì per prendere a giornata dei lavoratori e mandarli nella sua vigna. Accordatosi con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso l'ora terza, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati. E disse loro: Andate anche voi nella vigna, e io vi darò ciò che è giusto. Ed essi andarono. Uscito di nuovo verso l'ora sesta e l'ora nona, fece altrettanto. Uscito ancora verso l'undicesima ora, ne trovò altri che se ne stavano disoccupati, e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far nulla? Essi gli dissero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Egli disse loro: Andate anche voi nella vigna e riceverete ciò che è giusto. Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama i lavoratori e paga loro il salario, cominciando dagli ultimi fino ai primi. E, venuti quelli dell'undicesima ora, ricevettero ciascuno un denaro. Quando vennero i primi, pensavano di ricevere di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. Nel riceverlo, mormoravano contro il padrone di casa, dicendo: Questi ultimi hanno lavorato solo un'ora, e tu li hai trattati come noi ti abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata. Ma egli, rispondendo, disse a uno di loro: Amico, io non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi ciò che è tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te, non mi è forse lecito fare del mio ciò che voglio? O il tuo occhio è cattivo perché io sono buono? Matteo 20:1-16. Quanto siamo strani! Ogni giorno invochiamo misericordia, predichiamo la necessità di usare misericordia, e poi, quando qualcuno riceve un atto di misericordia che a noi sembra troppo e forse ingiusto, ci ribelliamo. Se crediamo che la parabola di Gesù non abbia solo uno sfondo moralistico, ma esprima realmente dei fatti, allora essa ha molto da dirci. Un uomo aveva pattuito un patto con dei lavoratori per una certa somma, per un giorno lavorativo. In seguito, questo padrone aveva assunto nel corso della giornata altri lavoratori. Alla sera, al momento della paga, il datore di lavoro diede a tutti la stessa somma. Coloro che avevano lavorato di più, come era prevedibile, si lamentarono di aver ricevuto tanto come coloro che avevano lavorato di meno. Il loro disappunto era rivolto verso un atto di favoritismo che risultava, per loro, un atto di ingiustizia. Giustamente il padrone ricorda loro di non aver fatto nessun torto perché aveva dato ciò che aveva pattuito, perciò egli si sentiva libero di usare benevolenza, di esprimere la sua misericordia a chi voleva. La parabola è un chiaro riferimento alla grazia e misericordia che Dio ha per ogni cosa creata. Nel suo piano divino, la divinità ha deciso, prima della fondazione del mondo, di salvare il creato e la razza perduta in modo equiparato, mediante il solo sacrifico di Gesù Cristo. Così, tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla bassezza della loro malvagità, sono riscattati dal Figlio di Dio. È evidente che, non entrando in merito ad ogni caso specifico, come quando un re ha pietà ed usa grazia a tutti i prigionieri, cioè è chi avrà ricevuto più condono, chi meno. Se un uomo che è in galera perché ha rubato una gallina, mentre un altro ha ucciso 10 persone, è ovvio che al momento della promulgazione della grazia, chi avrà ucciso 10 persone avrà ottenuto più misericordia. La grazia, per essere tale, non può entrare in merito al grado di colpevolezza. Proprio perché la grazia è un dono immeritato, essa non può tener conto dei meriti, e per questo non può mai essere ingiusta. E, come la pietà, un giovane soldato dell'armata di Napoleone commise un atto così terribile da essere condannato a morte. Il giorno prima della fucilazione la madre si recò dall'imperatore e chiese pietà per il figlio. Napoleone ribatté: «Donna, tuo figlio non merita pietà». «Lo so», rispose la donna, «se la meritasse, allora non sarebbe pietà». Perciò, indignarsi perché qualcuno ha ricevuto più grazia o pietà significa disprezzare la quantità di grazia che si è ricevuta. Proprio perché la grazia è un dono immeritato, proprio perché l'amore usa la grazia come tale, Dio ha misericordia verso chi vuole avere misericordia e ha compassione nei confronti di chi vuole avere compassione. Questa dichiarazione di Dio non può essere presa fuori dal contesto, perché allora si può dire ciò che si vuole. È evidente dalla Scrittura che Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, 2 Corinzi 5:19, e perciò il mondo, cioè tutti gli uomini, per quanto riguarda Dio, possono essere salvati mediante il patto nel sacrificio sostitutorio di Cristo. Questo è quanto la divinità ha pattuito con la razza umana. Perciò, la misericordia che Dio usa verso chi vuole, la compassione che dimostra nei confronti di chi vuole, non è riferita alla salvezza dalla perdizione, ma nei suoi atti quotidiani verso gli uomini. Infatti, di fronte a certi eventi della vita, chi è abituato a cercare una spiegazione a tutto, chi desidera comprendere le vie di Dio nonostante dica di aver capito, non ha una spiegazione, Ecclesiaste 8:16-17, perché la grazia e la misericordia di Dio si muovono su di un terreno non sempre razionalmente comprensibile, che un uomo tenti il suicidio per 3 volte venga salvato in tempo, mentre un altro riesce nel suo intento subito, mi è oscuro. Un uomo che violenta sistematicamente le sue figlie e viene scoperto solo quando ormai è vecchio, mentre chi ruba una gallina viene colto al primo colpo, mi lascia perplesso. Leggiamo nella parola di Dio che il re Davide commise adulterio e omicidio, che secondo la legge meritava la morte, e nonostante ciò è stato graziato, mentre 2 sposi, Anania e Safira, hanno solamente mentito in merito ad una somma di denaro che del resto metà l'avevano data come opera di carità, sono morti sul colpo, sfugge alla mia logica. No, io non comprendo le vie di Dio, e per questo, come nella parabola dei lavoratori, sono tentato a discutere la misericordia di Dio. Perché hai permesso che al primo tentativo di suicidio quell'uomo morisse mentre l'altro no? Perché hai permesso che il padre violentasse sistematicamente le sue figlie all'oscuro mentre, per una colpa minore, un altro è stato subito colto? Perché certi tuoi figli non subiscono subito le conseguenze delle loro colpe, mentre altri, per falli minori, sono duramente colpiti? Non mi sento di dare una spiegazione affrettata e moralistica, perché la grazia di Dio mi confonde. Se io ricevo subito le conseguenze dei miei errori, se a me Dio non permette che compia certe imprudenze senza riceverne l'esito, non mi devo lamentare, perché a me è stata applicata solamente la legge universale. Ciò che l'uomo semina, quello raccoglie. Se ad altri Dio, per mostrare la sua grande misericordia e grazia, ha deciso di non retribuire secondo la loro condotta, che torto può farmi? Vedo forse di malocchio la misericordia di Dio? Sono onesto. Forse sì. Se quello che Gesù ha detto è indirizzato a me, allora io sono uno dei lavoratori che si lamentano dell'amore di Dio, della sua misericordia, della sua grazia. Per non cadere in questo errore ho un rimedio. Se continuo ad avere una onestà intellettuale, se osservo obiettivamente la mia vita, devo confessare che anch'io molte volte non ho ricevuto la conseguenza dei miei errori, non sono stato trattato come meritavo. E di questa misericordia non mi sono mai lamentato. E allora? Signore, perdonami se la tua misericordia, la tua grazia, per me sono oggetto di invidia e di discordia, e fa che sia sufficiente. Gennaio 2005. Ellero.